Dicono che sia un istinto naturale sbattere le ali per volare. Alla nostra vita manca solo il coraggio di alzarsi in volo. Voglio stare che non c'è futuro, che la nostra vita è già segnata. Vivo solo quando stiamo insieme, che fatica volerti bene. C'è il passato che ha lasciato grande il segno, storie di altre storie consumate. Quando imparavamo a rassegnarci, ci è successo di incontrarci. Stai con me, che tutto il resto è un attimo. Regalami un miracolo, pretendi mio, cancellami, sono qui. Stai con me, che non possiamo perderci. La vita che ci obbliga non deve più dividerci. Stai con me. Tu che sei di un altro che non sai più amare, io che sento di volerti avere. Non possiamo stare ad aspettare quando amore pretende amore. Stai con me, che tutto il resto scivola. Abbracciami o distruggimi.